ci tiene aggiornati, quindi c'è la seconda puntata, il laboratorio per i musei e le biblioteche, RSU Cobas, e anche rappresentante di Pubblicamente Cultura, qua principalmente questo stasera, giusto? Bravo. Giusto, giusto, buonasera a tutti e a tutti. E Roberto Alessi, della Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno, che ci parlerà invece di, mi sono un attimo impappinata, Boom Cantiere, Boom Cantiere Creativo Calderara. Nonché presidente di Cronopios o direttore? No, vicepresidente. Vicepresidente. Vicepresidente di Cronopios, buonasera a tutti e tutte. Hai sempre fatto finta di essere il numero uno, invece no, sei il numero uno è Giuseppe Mariani, presidente, vicepresidente. Però è una carica che ci possiamo scambiare ogni tanto, sì, siamo due soci alla pari. È bello avere una carica che uno può, che ci una si carica può scambiare. È un po' come me Elisa, esatto, ce la possiamo scambiare. Sì. Ma tu cosa vuoi da me? No, niente. Adesso lei non ti fa mica più riprendere il timone, secondo me. No. Ormai se proprio posso fare una richiesta, un po' di musica di sottofondo non mi darebbe fastidio. Ma vediamo. CD2. Pensavo che tu richiedessi un Marco Roma, che ci starebbe. No, Marco Roma dopo, non lo so. È arrivato. Marco Roma? Marco Roma è arrivato, ma era arrivato anche l'altra volta, solo che l'hanno censurato. Ma questa volta ce l'abbiamo. Con calma, dobbiamo con calma ce l'abbiamo. Dai, con okay. calma. Quando vuoi tu, alla regia ci sei tu. Intanto è arrivata una musichetta di sottofondo, io l'avverto. Ascoltatori, avvertite la musichetta di sottofondo? Sì, anch'io. Feedback, please. Sì, io sono mezzo sordo, però. C'è. Ok, molto bene. Molto bene. E allora cosa facciamo? Entriamo subito in medias res. Beh, Enrico Tabellini ha un sacco di una ventina di fogli mai davanti a sé. Che qualcuno venisse con le slide stampate. No, con devo dire comunque eccetera, anche eccetera. Roberto Alessi ha stampato il programma. Vero, cioè, sono vero, ospiti sì. che io, noi viviamo cioè, il. Avete sbagliato il programma. No, il Nobel Coxico per la presentazione, per la presenza informata in radio andrà a voi. Esatto, vi facciamo questa spoiler perché di solito i nostri ospiti non sono così preparati, mentre invece voi siete molto preparati. Al contrario, ma forse può essere l'inverso: avere tanti fogli è indice del fatto di non essere preparati. Potrebbe anche essere così. Ma tu non dici agli esami non si arriva col libro. Vabbè, può essere. Vabbè, comunque iniziamo un attimo a sfogliare i contenuti, perché altrimenti non ci arriviamo in fondo di tutta questa roba. Allora, comincio io? Certo. Prego. Allora, ci eravamo visti in aprile, il 13 aprile, quando mi avevate invitato per parlare di Mi rivolto nella tomba, quella visita domenicale, tra l'altro la domenica delle palme che abbiamo fatto in Certosa come lavoratrici e lavoratori delle biblioteche e dei musei per protestare contro appunto lo sfascio della cultura nel comune di Bologna. Tra l'altro iniziativa che posso dire è andata straordinariamente bene, abbiamo dovuto fare il giro tipo 10 volte sotto l'acqua la domenica delle palme con le campane che suonavano. A un certo punto si sono presentati anche i Cavalieri di Malta. Malgrado questo sono arrivate tipo 700 persone appunto a fare con noi il giro in Certosa. Posso dire c'ero anch'io. Brava. E beh, ci mancava altro. Abbiamo raccolto con l'occasione, abbiamo fatto partire la nostra raccolta per una cultura pubblica che è arrivata a tipo 4.000 firme. È stato di agitazione dei lavoratrici e dei lavoratori, insomma attendevamo una risposta dall'amministrazione che purtroppo non è mai arrivata fino a una decina di giorni fa, quando lunedì scorso siamo stati tutti convocati al Modernissimo e convocati spintaneamente, nel senso che se non c'eri dovevi dire perché, alla presenza di assessore, direttore. Sì, hanno chiuso le biblioteche per così. I musei al lunedì erano chiusi, quindi. Di partecipare. Sì, consentirci è un'amabile perifrasi. Perché? Perché veniva presentato il nuovo Dipartimento Cultura, che poi siamo sempre noi, alla presenza della nuova direttrice, perché nel frattempo la precedente direttrice, che era quella del famoso piano strategico dei musei, che doveva rivoluzionare tutti i musei di Bologna. In realtà se n'è andata qualche mese dopo, e con lei praticamente anche il famoso piano, che è stato studiato per 2 anni, è costato più di 130.000 euro, adesso non vale la carta su cui è scritto essenzialmente. Cioè, nel senso che se n'è andata e si è portata il piano, cioè come chi va via che va via col pallone, no? Che come chi va via e va via col pallone, diciamo. Vi ricordate quella cosa meravigliosa dove gli utenti dovevano sputare nella provetta per far vedere il livello di stress prima, certo, e dopo, quelle certo. cose che avevo raccontato la volta scorsa, se non ve lo ricordate andatevi a riprendere il podcast. No? Io una volta ho sentito la storia di un direttore di un museo d'arte contemporanea che quando non gli è stata rinnovata la nomina ha formattato i computer nel museo. È stato probabilmente è stato denunciato, ma non credo che sia successo nient'altro. Però questo giusto per così. Se lo vuoi suggerire eventualmente, se Lorenzo Balbi ci sta ascoltando. Beh no, io glielo sconsiglio vivamente, a parte che lui è un signore e non farebbe mai non lo farebbe. Un atto così meschino. Scusate, comunque, vai pure avanti, Enrico. Appunto, convocati alla presenza di assessore, direttore generale, nuova direttrice del settore cultura e dei musei, e anche il sindaco, che è arrivato con un po' di ritardo, noblesse oblige, l'idea era quella di fare questa presentazione a noi stessi, essenzialmente ai lavoratori, di quello che è il nuovo assetto, un nuovo organigramma, e qui vi ho portato anche il foglio diligentemente, di tutto il settore cultura. Sono state 2 ore e mezza, devo essere sincero, anche piuttosto cringe, perché sembrava un'edizione di Tu sì che vales, praticamente, cioè leggevano i nostri nomi e poi ci facevano alzare in piedi tipo un bel applauso, era una cosa del genere. L'idea era di fare una kermesse che in realtà gli abbiamo subito smontato, perché tutte le sigle sindacali, quindi non solo quella che rappresento io, i COBAS, ma anche CGL e CISL e UIL, si sono presentate con un discorso che non era minimamente previsto, ma che ha cambiato subito il mood. Quindi prima di cominciare abbiamo parlato di quelli che sono, abbiamo consegnato finalmente queste famose 4.000 firme, e poi abbiamo parlato di quello che effettivamente è lo stato della cultura. Ci sono moltissime cose da dire, ma in realtà poi tutto quello che noi abbiamo detto è stato confermato essenzialmente dalle 92 slide che sono state fatte passare dopo, una cosa veramente infinita. Ad esempio, vi ricordate che nel piano strategico di cui abbiamo parlato la volta scorsa dicevamo che era il piano stesso, quindi la direzione stessa, il comune stesso, che diceva che nei musei sarebbe servito un ampliamento significativo, qui sto citando, di unità di personale da un minimo di 39 a un massimo di 74 ad integrare le 113 unità di personale attuale? Questo sì, era quello, ricordo, che avevo detto. Mi ricordo anche che passammo un po' di tempo a fare dei conti proprio. Benissimo, cancella tutti i conti, perché in realtà il nuovo organigramma, adesso voi siamo in radio non lo vedete, ma io lo sto facendo vedere, dice che siamo rimasti nel settore dei musei da 113 a 101, alla carica dei 101 praticamente. Ah, perfetto. E quindi ci sono i 12 apostoli che mancano all'appello. I 12 apostoli che mancano all'appello, sì. Ma questa è solo una delle tantissime cose, perché poi oltre ai musei ci sono, oltre a occuparsi dei 14 musei, ci sono anche tutte le biblioteche di quartiere, le biblioteche specializzate, ad avere praticamente 156 persone. Tenete conto che in cultura, tra musei e biblioteche, siamo nel comune di Bologna meno del 5% del totale, e ricordo sempre che solo 15 anni fa eravamo in 254, ma solo nei musei. Okay? Oh, wow. Adesso siamo praticamente più che dimezzati. E malgrado appunto ci sia stato un concorso che però il comune ha fatto scadere le graduatorie dopo neanche un terzo delle assunzioni che l'Epore stesso, che il sindaco stesso promise nel 2020, proprio lui diceva le biblioteche e i musei non possono essere considerati un luogo dimenticato da Dio e dal sindaco, qui sto citando proprio le parole messianiche del sindaco nel 2020, Purtroppo quello che poi è successo è, era poi anche quello previsto, le cose peggiori previste dal piano strategico, cioè una riduzione essenzialmente di delle entrate correnti dei musei di 1.850.000 euro tra il 2025 e il 2027. Per non parlare di tutti i problemi, ci eravamo visti che proprio nel museo dove lavoro io c'era appena crollato un soffitto, per fortuna a mezzanotte, quindi senza non proprio vittime. sopra le teste, senza vittime, e lì per esempio abbiamo tirato fuori i dati della manutenzione. Sapete in quante persone si occupano di sicurezza e manutenzione per le biblioteche? In due. Ma loro sono fortunati, perché per i musei è uno solo. Cioè stiamo parlando di tutte le biblioteche, sì, di Bologna? Sì. E uno tutti i musei di Bologna? Sì. E poi dopo nelle slide effettivamente si è visto, e le povere due persone l'hanno anche fatta alzare, applaudire, eccetera, eccetera. Io faccio sempre anche poi questa battuta che quando io sono stato assunto in pianta stabile, oramai ai tempi delle 5 giornate, 21 anni fa, avevo 27 anni ed ero il più giovane assunto in cultura, uno dei più giovani in tutto il comune. Dopo 21 anni sono ancora uno dei più giovani. Questo ci dà una misura del grado di turnover. Esatto. Allora niente, passiamo così. Mi veniva proprio da dire che abbiamo questo stato di insicurezza, così. Ma Lisa, hai qualche cosa di musicale da darci per addolcire un attimo la pillola? Certo, ci sarà un altro autunno. Il nuovo singolo di Tosello. Che è uscito le foglie. Il 10 ottobre. Ve lo leggo perché... primo estratto dall'album Nel disordine delle cose, in uscita il 28 novembre per Materiali Sonori. Una canzone che scava nella solitudine e nel disincanto, accarezzando le ferite invece di nasconderle. Allora, diciamo che proprio rimaniamo perfettamente in tema. Perfettamente coerenti. Ringraziamo Maria dell'ufficio stampa Press che ce l'ha mandata. Ascoltiamo. Bellissimo. Grazie Maria. Sotto il palcoscenico io aspetto, nel teatro dell'anima si scioglie anche il trucco, riflettori accesi, cala il sipario, ridevo sul palco ma dentro il palcoscenico è freddo, il pubblico assente, la mia voce si perde nel silenzio assordante. Con questa maschera in viso ed il sorriso di ghiaccio, per la folla pagante resto solo un pagliaccio. Ci sarà un altro autunno ed il mondo va a pezzi, nascosto da ombre velate, di sogni riflessi. Il cielo è grigio ed il cuore in esilio, dietro le quinte i miei sogni. Ispirato da storie, da volti lontani, nostalgico ricordo gli amori umani. La finzione mi avvolge, mi sento soffocare, le maschere cadono, la verità acceca. Ci sarà un altro autunno ed il mondo va a pezzi, nascosto da veli di sogni riflessi. In cielo è grigio ed il cuore in esilio, dietro le quinte i miei sogni. Non era male sto pezzo. No, bello, dai. Nel frattempo stavamo escogitando la festa di Capodanno. Ci stavamo accarezzando le ferite, come sì, per anche parafrasare la presentazione di questo pezzo. E, va bene, allora, visto che abbiamo da questa parte della barricata anche Roberto Alessi e Stefano W. Pasquini in qualità di ospite. No, io non sono ospite oggi. Hai detto che volevi essere ospite. No, ospite. Sto seduto. In qualità di nulla facente. Esatto. Allora, io di solito quando sto da questa parte rompo i coglioni a chi sta in regia. Però. No, ma infatti tenetevelo. No, ma può far parte cioè, quindi lui dove lo metti rompe i coglioni a quelli che stanno dall'altra parte. Esatto. Questo è il tuo ruolo. Cioè, se stai di là, rompi quelli che stanno il mio qua, ruolo è quello dell'istigatore. No, ma per fortuna adesso sta seduto, cioè è in un unico posto con un unico microfono E con, tre persone che lo tengono che a bada, che lo braccano. Voi che ascoltate non lo potete sapere, ma in realtà è legato ed è l'unico motivo per cui esatto. Mi avete messo la cintura contro la sedia. Il suono della voce esce naturale anche se legato. Dal mio punto di vista può essere un ospite anche lui, perché fa parte della storia sia della Casa della Cultura, dove ha imperversato per qualche mese un bellissimo progetto Obsolete Shit qualche anno fa. In realtà la mostra si chiamava Obsolete Show. Show, sì, scusa. Ah, è la rivista, la rivista Obsolete Shit, dove abbiamo fatto il numero 69. Infatti. Il numero 69 di Obsolete Shit. In Obsolete Show. Obsolete Show. Che era un grande circo di poesia. Di arte contemporanea. Così partecipativa. Cioè chiunque entrava doveva comunque produrre qualcosa, per cui c'erano dei ricchi premi e cotillon finali, e per cui c'era da disegnare, da dipingere, da farsi selfie con e la banana di carta. C'erano dei vincitori? Certo, sì. Adesso tutti. Non mi chiedere i nomi dei vincitori, però... Io ho vinto... Tu hai vinto qualcosa, sì, cosa hai fatto? Un piccolo Pasquini. Abbiamo fatto una lotteria alla fine. Con i numeri... Un piccolo Pasquini sono riuscito a vincere questa lotteria, quindi... E anche adesso, in questa ultima edizione di Boom, del quale ottava edizione cavoli, di questo glorioso festival, anche in questa edizione sarà presente Stefano in una piccola cameo che poi vi racconterò. E sì, sono qua per raccontarvi questa bellissima esperienza che è nata nel 2018, un festival che ha accompagnato la programmazione della Casa della Cultura, anzi ha portato diciamo a culmine quelli che erano dei progetti che nascevano magari nel corso dell'anno, come quello di Stefano, progetti partecipati, che è stata diciamo, una caratteristica principale delle attività all'interno della Casa della Cultura. Però questo momento culmine, un festival, quindi concentrato in poche giornate, ci dava la possibilità anche di avere altri ospiti che ci dessero, no? Che ci illuminassero la strada per i percorsi futuri. Quindi perché è stata... diciamo che dal 23 al 26 ottobre di allora, quest'anno sì, dal 23 al 26 ottobre, da giovedì a domenica. Tutto dentro alla Casa della Cultura. Tutto dentro alla Casa della Cultura e altri spazi di Calderara, quindi il Teatro Spazio Reno, oppure anche... all'aperto ci sarà un laboratorio nella Golena San Vitale, che è un parco rinaturalizzato vicino a Calderara, che ospiterà un laboratorio di forest therapy. Che cos'è la forest therapy? È una modalità per cercare di riavvicinarsi in qualche maniera alla natura, di ristabilire un contatto, di riaprire dei sensi e trovare giovamento, ma non tanto personale, ma proprio per rientrare, trovare quello che viene definito un reincanto con la realtà, quindi riallinearsi con quelli che sono dei ritmi e delle pratiche che vanno al di là di quelli che invece sono dei ritmi forsennati, no, della modernità, sì, nella quale stiamo tutti subendo. Di noi inurbati. È una delle modalità. Partiamo appunto dalla fine, perché l'ultima giornata appunto è dedicata a un percorso per sperimentare nuove grammatiche, quindi c'è un finale che vuole essere positivo in questa narrazione di questi quattro giorni, e quindi avrà questo laboratorio alla mattina nella Golena San Vitale, condotta appunto da Ivano Rofino e Maela Canu, che sono due esperti di questa pratica formativa. Avremo nel pomeriggio invece un medico, un dottore, che ci parlerà invece di come attraverso le abitudini della vita raggiungere quella che è la speranza di vita sulla carta che avremo tutti noi, che sono quelle dei 120 anni in salute. Ah, caspita, okay. Noi avremo questa possibilità. Almeno ci viene detto, cioè, che c'è questa possibilità. Bella questa. Noi adesso, con tutto quello che combiniamo durante la nostra vita, abbiamo una speranza di, cioè una media di 60 anni in salute. E quindi dopo sono altri 60 mesi male. Sì, esatto. Devo alzare il volume di sottofondo, perché anche in questo caso è azzeccatissimo. Per cui, verrà data una panoramica su quelle che sono tutte le abitudini che portano. Questa io me la segno, ridimmi esattamente quando. Questo è l'ultimo giorno. È domenica 26 ottobre, questo era il 15 pomeriggio. Domenica 26, io devo disallestire, ma speriamo. Alle ore 15 nel pomeriggio. Dopo c'è il laboratorio la mattina, poi il pomeriggio si può dar continuità con questa serata, e ci sarà una bellissima conclusione di questo festival con Edoardo Camurri, voce radiofonica del Rai 3, cioè un personaggio televisivo che è anche di estrazione, è un filosofo, e negli ultimi anni ha scritto due libri. Uno è Introduzione alla realtà, due anni fa, edito da Timeo, e quest'anno, adesso a inizio ottobre, è uscito anche il suo secondo libro, che è La vita che brucia. È un particolarissimo trattato filosofico che ci dà delle indicazioni su come ci rapportiamo alla realtà. Fondamentalmente. Quindi ci spiega come mai ci riduciamo a 60 anni invece che 120? Sì, a volte certo sì, oppure senso. No, oppure ci dà invece anche delle indicazioni per raggiungere filosoficamente quella che potrebbe essere un'immortalità, cioè un'assenza di considerazione dello spazio e del tempo in una dimensione più generale che ci fa vedere il mondo in una maniera diversa, no? Perché lui dice c'è una realtà che ci opprime, quella in cui nasciamo, cioè nasciamo una realtà che è già fatta e quindi ci dobbiamo abituare a quella. Poi c'è, io devo fare la realtà che opprime e mandare la pubblicità. Esatto. Poi c'è una realtà come quella degli artisti, come Stefano Pasquini, che inventano anche noi, che produciamo artefatti culturali, che ci permette di sognare, di uscire da queste gabbie, no? Anche solo momentaneamente, che si contrappongono. E poi c'è una realtà invece più generale che le comprende tutte e due, dove gli opposti si uniscono e quindi il bene e il male diventano un'altra realtà nella quale, se riusciamo a convivere, andiamo a capire effettivamente quello che è. E poi c'è la realtà della sopravvivenza economica. Con la pubblicità, noi ci vediamo, ci sentiamo e ci ritroviamo dopo la pubblicità. Avevo promesso che era... Abbiamo 50 anni, portati con rispetto, se ti abbonerai la radio guadagnerai un fumetto che racconta un po' di storie, non certo ordinarie, di città fuggì con una radio comunitaria. Scopri come abbonarti su www.radiocittafuscico.it/abbonamenti. Sento coxo spaziali girare sulle atmosfere, sento coxo spaziale scendere sul pianoforte musicale, brilla coxo spaziale nel mio cuore e nei cuori dei radioascoltatori, c'è Marco Roma per voi. È una trasmissione di sigla. Beh, manca di déjà vu questa. Infatti è un Marco Roma, è un Marco Roma antico. Marco Roma antico. Ma ce n'è uno nuovo invece di Marchi, Marchi Roma. Di Marchi. Chissà. Certo. Vai Marco. Ma come al solito, vabbè, non funziona. Ti ho fatto una domanda inopportuna. Ma vabbè, però adesso continuiamo con il programma. Ridiamo la parola a Roberto Alessi, sì, che esatto, era stato sì, così impietosamente interrotto dalla esatto, pubblicità a metà di un verso poetico. Infatti. Sì, poi in maniera eretica ero partito dalla fine, ma perché un po' è la... È anche la matrice di questo festival, no? che poi l'etimologia di eresia vuol dire anche scelta, quindi sono delle scelte precise che vanno magari a volte fuori degli schemi, così siamo andati fuori degli schemi partendo dalla fine. Ritornando, riavvolgendo il nastro all'inizio, questa edizione di Boom è un'edizione speciale che vuole riassumere le otto, è arrivato a un punto di maturità, vuol riassumere idealmente le altre edizioni, chiamando a raccolto un po' anche tutti i protagonisti che hanno partecipato alle edizioni precedenti. C'è un titolo di sì, c'è un titolo dal quale parte tutto, che è una domanda molto importante, una domanda che mutuiamo da un titolo di uno degli ultimi libri di Bruce Chatwin, ed è: che ci faccio qui? Da operatori culturali ci rendiamo conto che è importante ogni tanto chiederci, no, qual è il senso del nostro operare, perché comunque il mondo cambia sempre più velocemente e di fronte a questa velocità di cambiamenti provare a trovare dei punti di pensiero, no, che ci riportino un po' al senso di quello che facciamo è molto importante, e questo lo abbiamo chiesto all'interno del nostro programma a diverse persone, appunto, che hanno partecipato al progetto Boom Cantiere Creativo, i cittadini questi, di Calderara, questi, dire, anche Pasquini, che magari poi Pasquini ce lo dice, che sì, ci fa qui, che ce lo stiamo domandando. No, io smentisco tutti. Tutto, mai stato a Calderara in vita mia. Allora, cosa, diciamo, questa domanda l'abbiamo rivolta ai primi di tutti, e questa scansione un po' riprende il programma ai cittadini di Calderara che hanno partecipato a un progetto che è durato 9 mesi, guidato da Valentina Daccardi, dall'artista Valentina Daccardi, che ha esplorato il legame profondo tra Calderara e i suoi abitanti. Appunto, ha chiesto: ma che ci fate qua a Calderara? Che prospettive future avete? Ecco, a questa domanda appunto hanno risposto intervistati diversi cittadini, sia del centro città sia delle frazioni, e verranno raccontate all'interno di Boom giovedì 23 attraverso appunto una mostra multimediale che si intitola Futuro Prossimo, che è il titolo del progetto generale, e attraverso un video racconto, quindi un filmato di una mezz'ora, un video racconto onirico, appunto poetico, montato sempre da Valentina Daccardi. Ecco, infatti volevo chiedere. Sì. Questi due eventi daranno poi vita a una festa conviviale, quale artisti e cittadini si uniranno, no, per celebrare la fine di questo progetto che è stato condotto durante tutto l'anno. Hai ancora 2 minuti. La stessa domanda l'abbiamo rivolta a artisti che hanno partecipato, mm-hmm, e tutte che ci faccio qui, che verranno, sono state raccolte in un libro edito da Tatanka, da Atelier Tatanka, in collaborazione con Adiacenze. E 37 artisti delle 8 edizioni hanno risposto al che ci faccio qui e l'abbiamo raccolto in un libro che verrà presentato venerdì 24 ottobre. E a seguire ospiteremo uno spettacolo di danza di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi che si intitola Aerea, sulla duplice forma della bandiera, no? Bandiera come simbolo di identità, ma anche come simbolo di separazione, certo, e quindi che verranno messe in discussione attraverso un bellissimo spettacolo e naturalmente tutto il programma di Boom è disponibile al sito Programma di suo sito boomcantierecreativo.it, ecco, oppure sul sito del comune culturara.it. ma noi lo citeremo anche la settimana prossima, certo sarà nelle menzioni. Chiaro. Ovviamente, ma sì. No, mi domandavo se potevamo fare spoiler e leggere non quella di Pasquini, no, ma un estratto. Ho detto una che aveva 2 minuti, siamo già in ritardissimo. Sono già in 40. Io andrei. Mi permetto solo di dire che c'è un'anteprima sabato prossimo. Ci abbiamo le menzioni. Certo. Okay. Scusa, vai avanti. Sabato prossimo, 18, ci sarà una giornata dedicata alla danza contemporanea con la restituzione all'interno, alla fine di un corso di formazione per coreografi di 14 giovani autori e autrici che presenteranno i loro lavori dal pomeriggio dalle 15.30 fino a sera. Sono 14 coreografie originali, spetti da un quarto d'ora, ai quali invito tutti a partecipare perché effettivamente sono cose nuove e frutto di un percorso formativo molto importante. Una giornatona. Beh, seguendo questa wave di menzioni, esatto, di sabato 18. L'angolo della menzione. Andrei direttamente qua. Completamente partiamo rimosso. Subito con martedì 14 dalle 18 alle 21 inaugura Icona Chip, doppia personale di Margherita Paoletti e Marco Z1 Burresi, dedicata a Stefano Benni. Icona Chip non è un errore grossolano, ma l'anagramma di Pinocchia, che per un gioco di mera assonanza diventa un'icona da poco popolare in un ossimoro stridente e ammiccante. Pinocchia è protagonista di una pista teatrale di Stefano Benni a cui è dedicata la mostra. Tutto questo a Magazzino Art Gaze in via Testoni 5E a Bologna. Mercoledì 15 ottobre dalle ore 18 inaugura la mostra focolare di Nicola Di Giorgio curata da Andrea Tinterri. La mostra è il risultato di una residenza dell'artista a Cadac, Spagna, o Cadaques, ma chi lo sa, l'ho letto alla francese, Cadaque. Grazie. Legata al progetto L'ultimo respiro del corpo nel pensiero dei mondi, caduto tra le mani del fatto sottratto. Dal 2023 ongoing questo progetto. Il Mambo ospiterà un incontro con l'artista il 29 ottobre, questo ad Adiacenza in vicolo Santo Spirito 1/B a Bologna. Certo che è una solo cose felici oggi, esatto. Solo minchia. Sì, mercoledì 15, sempre 15 dalle 18 alle 20 si tiene l'opening a ingresso libero della mostra Kipras Dubauskas, pirogenia, folla e demoni, curata da Elisa Del Prete e Andrea Pastore. L'esposizione, allestita dal 16 ottobre all'11 gennaio 2026 nella Project Room del Mambo, è la prima personale in un'istituzione museale italiana dell'artista lituano. Tutto questo al Project Room del Mambo in via Don Minzoni 14. Venerdì 17 alle ore 18 la Galleria De Foscherari presenta Pushing the Limits, una non mostra ideata da Armando Lulai e curata da Fabiola Naldi, concepita come atto di resistenza contro le narrazioni e i modelli imposti dal neoliberismo globale. Il progetto ruota attorno alla Debatic Center of Contemporary Art, DCCA, piattaforma indipendente nata a Bologna nel 2003 con sede a Tirana, che utilizza l'arte come strumento di conflitto, dissenso ed emancipazione. Tutto questo alla Galleria De Foscherani in via Castiglione 2B a Bologna. Venerdì 17 ottobre dalle 19 alle 23 a Gelateria Sogni di Ghiaccio continua il ciclo Family Matters con la personale di David Casini intitolata Chi sema in avento. Gelateria Sogni di Ghiaccio, via Tanari Vecchia 5 a Bologna. Chi sema in avento? E raccoglie. Infine sabato 18 dalle 19 alle 21 alla Galleria Enrico Astuni presenta una mostra personale di Ugo La Pietra intitolata La mia territorialità, a cura di Marco Scotini, nella Galleria Enrico Astuni in via Barozzi 3 a Bologna. Dai, su, non ce è andata siamo neanche cavata male, con infatti, poco con tutte no, queste menzioni. Io ci tenevo ad avere un secondo round di Enrico, perché sicuramente sì, cioè, vedo che c'è ancora era un sacco di fogli con un sacco. Io faccio una protesta ufficiale, cioè a me mi chiamate sempre e solo per parlare dello sfascio della cultura. No, invece cioè, io invece voglio... tutti i musei facciamo un sacco di cose bellissime. Infatti io volevo la Task Construence. E sono sempre i dati che qui ho di fronte che ci hanno mostrato, perché dovete sapere che nei musei nel 2024 siamo è successo un incidente. Marco Roman si è infilato a tradimento, boicottaggio nella Task Construence. Cioè, stavolta che abbiamo dei dati positivi, parte boicottaggio con Marco Roman. Esatto. Vai avanti. Noi dati positivi che conosciamo, ma che non so bene. Non interessa a nessuno. Esattamente. Quando i musei non ci va nessuno, tutti i giornali, eccetera. Pensate che l'anno scorso nei musei che per esempio non ci vada, poi dei luoghi polverosi per eccellenza, tra l'altro i musei non sono minimamente polverosi, sono sempre luoghi pulitissimi, sono entrati come visitatori 559.679 persone come visitatori e altri 193.000 e passa come partecipanti alle attività. Stiamo parlando di più di 770.000 persone che hanno partecipato in vario genere alla vita e alle attività dei musei. Quest'anno, sempre i dati del comune, abbiamo il dato aggiornato ovviamente al 31 di luglio, perché l'anno è ancora in corso, siamo già a 548.000 persone. Adesso non saremo gli Uffizi, ma sono dei numeri siamo importanti. La nostra porca figura. Non siamo neanche alla Casa della Cultura di Calderara, insomma. Cosa mettete? È un ospite contro l'altro, ma non è una mossa. Chi vince, mandate un messaggio al 3. Allora prendo una vendetta su Stefano, perché fuori onda mi ha chiesto, ma Il sindaco alla fine come ha reagito al vostro discorso? Però me lo fa fuori onda questo discorso, perché è un pazzo. Rispondi in onda. Allora, la risposta che io non ho assolutamente problemi, anche perché quello che è successo... Mi toglie l'amicizia su Facebook, che mi aveva chiesto lui 10 anni fa. Che tu hai rifiutato. Quando non era ancora sindaco e non stava ancora tagliando soldi. Comunque... Va bene, e dunque... Adesso siete curiosi. Sì, essenzialmente il sindaco si è alzato, è arrivato insomma a metà della kermesse, chiamiamola così, e ha detto che la cultura è importante, ma che lui prometteva che non assumeva nessuno. Non vi prometto che assumo qualcuno. Ha usato una doppia negazione. Non vi prometto che assumo qualcuno. In realtà la cosa per noi, ovviamente, adesso al di là degli scherzi, in realtà è tutto vero quello che vi sto raccontando, è che lo dice il comune stesso, l'assurdità è che dovete sapere che la legge prevede un limite di virtuosità per i comuni. Un comune è considerato virtuoso quanto meno spende per la spesa di personale. Meno. Quindi se sei virtuoso hai meno personale possibile, questo è quello che dicono le norme. E c'è proprio un limite che viene calcolato che per il comune di Bologna si attesta, lo dice sempre il comune, non è che lo dico io, a 181 milioni di euro. Ok? ok? E in realtà, sempre nel piano del fabbisogno, che è questo documento che tutte le amministrazioni devono presentare, due righe più sotto scopriamo che la spesa del personale prevista per il Comune di Bologna, questo tutto intero, ovviamente tutti, per tutti i servizi del Comune, ammonta a 166 milioni per il 2025, 165 per il 2026, 164 per il 2027. Quindi stiamo concorrendo a virtuosissima proprio. No, il problema è che il Comune sta facendo cassa assumendo sempre meno gente, ed è sempre il Comune che lo dice. Il Comune dice: per il 2025 mi aspetto circa 230 cessazioni, cioè essenzialmente i pensionamenti, e ne assume solo 145. Fanno così anche in Accademia, non so se ti può confortare. Fanno così in tutto lo Stato italiano. Tranne in un posto, perché invece nelle fondazioni succede esattamente il contrario. Esempio, Bologna Welcome è passato nello stesso periodo da 24 a 78 persone, la fondazione Innovazione Urbana è passata da 6 a 32 persone nell'arco di 5 anni. È una comunale queste fondazioni? Come assolutamente funziona? Sì, assolutamente sì, e stiamo parlando solo di personale assunto a tempo indeterminato, perché se poi andiamo a vedere, qui posso parlare solo della fondazione Innovazione Urbana, perché Bologna Welcome deve ancora pubblicare i bilanci del 2024, siamo a ottobre 2025. Hanno acceso 366 contratti di collaborazione per una spesa totale di 4.380.000 euro. Sono passati dal 2018, che erano 283.000 euro, a all'anno scorso, gli ultimi dati disponibili, 1.279.000 euro, creando un buco di bilancio nel bilancio della Fondazione Innovazione Urbana, che è la più piccola, tra l'altro, delle fondazioni comunali, di quasi mezzo milione di euro. Lì però non ci sono problemi. Per quanto riguarda i musei, evidentemente non stiamo particolarmente simpatici, malgrado insomma il gradimento evidente e tutte le nostre attività che verrebbe facciamo. Verrebbe quasi da pensare male a fronte di tutto questo. Di solito ci si azzecca, no? Dicono così, che a pensare male, male ci si azzecca. Tu Roberto cosa ne pensi di tutto questo? Andiamo a sentire perché allora, perché per equilibrio, no? Cioè, sì, abbiamo dato la pars construens a Enrico, adesso ti diamo la pars destruens. No, io penso che in generale, non solo il settore culturale, il mondo appunto sta andando verso derive non tanto piacevoli, e penso che comunque il nostro lavoro da operatore sia quello di cercare di mantenere saldo la lucidità per dare delle possibilità di costruzione rispetto a quelle che sono delle difficoltà oggettive. Sicuramente in Italia in generale la cultura non è sostenuta in maniera adeguata, possiamo dirlo. Probabilmente negli ultimi tempi può anche essere un ostacolo rispetto ad altre logiche che non hanno niente a che fare con la cultura, ma che hanno a che fare con l'economia o con altre branche. No, infatti adesso va di discipline che non seguono certo logiche. Va di moda a dire che la cultura va sostenuta con il turismo, non so. Sì, no, questa. A Calderara questo non succede, però, vero? No, a Calderara non è successo. Sono gli aerei che arrivano sulla mass testa. Mass tourism a Calderara, io lancio questa idea. Poi magari con la tassa di soggiorno a Calderara e facciamo una bella tassa di soggiorno, finanziamo. No, a suo modo ci sono anche diciamo, c'è la pista ciclabile, la ciclovia del sole, che potrebbe diventare appunto una bretella che attraversa Calderara e che promuove un turismo sostenibile. Quindi questa è la prospettiva che ho visto toccato con mano rispetto a quello che le discussioni che sono fatte. Quella è lo sviluppo di marketing territoriale, detto in termini negativi rispetto al tema, ma di sviluppo sostenibile del territorio, quindi quello, diciamo, Caldera era quello che ho visto. Per il resto la Casa della Cultura effettivamente era un investimento puro dedicato alla costruzione di una comunità attraverso la cultura, questo lo posso testimoniare. Bene, io direi che siamo anche arrivati... Siamo arrivati in cima, sì, c'è qualcosa che volete aggiungere? Ma l'ultima volta eravate molto curiosi di sapere la sorte del Museo Morandi. Sì. Lo ricordate il Museo Morandi, sì, che dovevano spostarlo di qua, di là, Palazzo Pipoli, eccetera? Ah, giusto, perché abbiamo quella anche lì. Che non ci crederete, ma è rimasto esattamente lì. Dov'è. Ah, oh. Però nel frattempo il comune si è preso Palazzo Pipoli e tutti i costi e si sta vantando che ha fatto ben 20.000 ingressi in 6 mesi. 20.000 ingressi è la metà di quelli che vanno a visitare il da Via Bargellini, con tutto il rispetto. Bene. Però Morandi è ancora a casa sua. Morandi è ancora a casa sua. Questo era Cox Spaziale. Morandi della favola. Morandi della favola. Questo era Cox Spaziale. E io ero 547. Cinzia Corda. No, io ero Cinzia. Tutti Cinzia. Eravamo tutti Cinzia Corda. E io ero Chiara Pergola. Io ero Lisa Migneri. Ringraziamo i nostri ospiti. Io, Stefano. Grazie Enrico Tabellini, ti aspettiamo di nuovo per continuare questa fantastica favola. Per dare favola. Colpi di grazia. Esatto, alla cultura. E no, noi ci ascoltiamo. Magari speriamo di rivederti con... Io sono Matteo Lepore. Ecco. Ok. E oddio, noi ci ascoltiamo la prossima settimana. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Il dermatologo, vado dallo psicologo.